che ne sai di quante volte sono stato solo? Tu che ne sai di quante volte sono stato banale, poi sono stato male? Di quante volte ho scritto una canzone solamente in maggiore? Di quante volte ho utilizzato frasi chiave come tu che ne sai? Tu come stai? Con quali occhi tu mi guardi? Questa volta voglio parlare con te davanti a un caffè. Che non sia di compagnia, che non sia di cortesia, che sia solamente un modo di vivere il nostro comune orrore del vuoto. Tu che ne sai? Quante volte ho imitato un'ombra, tu che ne sai? Di quante volte ho mentito pur non avendone motivo? Di quante volte ho amato una donna pur non vedendola fino in fondo, pur non conoscendola fino in fondo, pur non amandola fino in fondo? Io ho amato una donna. Fratello, io non l'ho mai saputo. Caro unico fratello, è un sapere a metà, è un odiare a metà, è un morire a metà. Insieme davvero.